Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.

就是你后来的。那么这

Thank you. Thank you. Thank you. Azt mondta, az elkoptó ilyen van meg a második visszaidő. ma sì, vi ho detto una cosa che la cosa sono stata io. Mi tocco, ma ti ho detto, ve l'ho fatta. Och vad igen och vad låt attågod. Och det är ju så att jag vill se mig. Och kul, så är det med på det där stället. Du gör nej, det är ju det här på mig och det är ju det här med mig. Och jag Ecco chi c'è rosso, non c'è una mente. Ah, voglio dire che se non è la strada, non c'è mai un po' di rosso. Ah, c'è la strada, c'è la strada, c'è la strada, c'è la strada, c'è la strada, c'è la strada, c'è la strada, c'è la strada, Thank you. Tutti, la parola sotto il c'è, molto però buttato con il vice mettere se non dà un caso, ma oggi. La parola sotto il cielo, molto guardato da voi, dice che è in casa. A te cara, vou falar não.

kapott. Ezt mikor visszafelé topolyára? A buszban 18 óra után. Az mindig van a helyet. Pénteken van biztos. Szombaton azt mikor visszafelé. Ilyen 4 óra után. Kaszkáló van kapára negyed. Az már szóval kitaknám.

Thank you.